Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione dedicata a quella parte della società umana che si pone la cosiddetta questione animale. Secondo noi la società umana dovrebbe ripensare la sua relazione con gli individui non umani, individui che purtroppo, non contando ancora abbastanza, vengono allevati, privati della libertà, sfruttati, addestrati, vivisezionati e molto altro. Noi cerchiamo di parlare di attualità, portando sull'attualità il punto di vista animalista, antispecista e vegan, per cominciare al più presto a vivere, pensare e agire in modo non violento, in modo, per usare uno slogan anglofono molto efficace, cruelty free. E siamo arrivati alla puntata numero 544, nella quale parleremo di orsi ottenenti asilo, elefanti mutanti, rivoluzioni che verranno. Speriamo di avervi incuriositi. Inizio a questa puntata con una buona notizia che arriva da Pescasseroli e per la precisione dal centro visite del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il cui acronimo è PNALM. È arrivata a compimento una complessa operazione di salvataggio. 3 orsi bruni europei, un maschio di circa 10-15 anni, una femmina di 30 e una di 10, sono stati sequestrati a un circense in Lituania, a Joniškis, dove i 3 malcapitati venivano sfruttati e fatti esibire nei circhi. E quando non lavoravano, venivano detenuti in miseri ricoveri senza finestre, con recinzioni fatiscenti e inferriate arrugginite. Nel 2017, però, per fortuna, è entrata in vigore in Lituania una legge nazionale che tutela gli orsi. Grazie a quella legge e all'impegno di tante persone animaliste che hanno denunciato le condizioni inaccettabili degli orsi sfruttati, ha avuto inizio una nuova fase di progressivo recupero di tanti animali, fase resa complicata per la mancanza di centri attrezzati con spazi adeguati che potessero ospitare tutti questi animali liberati. Dunque, tornando alla storia dei 3 orsi lituani, durante un'operazione di trasferimento di un altro orso illegalmente detenuto, il team veterinario dell'associazione Salviamo gli Orsi della Luna si è imbattuto nella storia di questi 3 animali, che versavano in pessime condizioni. In seguito alla denuncia e al successivo sequestro si è messa in moto la macchina internazionale, che è riuscita ad attivare tante procedure per realizzare il trasferimento nel Parco Nazionale Italiano. Finalmente gli orsi sono arrivati nella loro nuova casa, a Pescasseroli. Se andate sul profilo Facebook del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, potete ammirare i 3 orsi che sbarcano nell'area verde protetta, ricca di alberi e di erba profumata, dedicata a loro, dove nessuno pretenderà più esibizioni umilianti. Per mandare a segno questo complicato progetto, reso ancora più complesso dalla questione del Covid, che ha dilatato i tempi e creato molti ostacoli aggiuntivi di tipo burocratico, è stato anche necessario che molte associazioni collaborassero. Oltre al Parco Nazionale d'Abruzzo e all'associazione Salviamo gli Orsi della Luna, con sede a Genova, si sono impegnati il Ministero dell'Ambiente lituano, un'organizzazione lituana dal nome impronunciabile, la Commissione Scientifica CITES, oltre alla Fondazione Italiana Capellino, che è il braccio filantropico dell'azienda produttrice di cibo per animali Almonature, anch'essa con sede nel capoluogo ligure, che ha coperto le spese di trasporto. Il direttore del parco, Luciano Sammarone, sottolinea che i 3 orsi bruni europei in nessun modo entreranno in contatto con la popolazione dell'orso bruno marsicano. Saranno sterilizzati e custoditi in un'area appositamente costruita. Se gli orsi lituani richiedenti asilo hanno trovato un futuro sereno, anche se non libero, a Pescasseroli, più incerta e tetra resta per il momento la condizione degli orsi trentini, che a colpi di ordinanze, uno dopo l'altro, sembrano destinati a subire arresti ingiustificati e detenzioni illegittime, quando non addirittura condanne a morte arbitrarie. Il servizio di approfondimento è come sempre a cura del nostro Zenone Sovilla, corrispondente di Restiamo Animali dall'Arco Alpino Orientale. Già poche ore dopo l'episodio avvenuto nei boschi della Valle di Non, il presidente della provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, aveva emesso la sua sentenza di condanna a morte per l'orso. Ciò lo aveva fatto non solo prima che si celebrasse il processo, ma quando le indagini di polizia forestale sostanzialmente non erano nemmeno cominciate. Insomma, un caso da manuale per i difensori dello Stato di diritto. Secondo il presidente del Trentino, l'orso che nell'improvviso faccia a faccia aveva morso un uomo alla gamba e colpito il figlio, va abbattuto. 24 ore dopo i fatti, l'ordinanza era già pronta da firmare. Ora, va premesso che è increscioso che le persone riportino ferite, fortunatamente lievi in questo caso, in seguito a un incontro con un animale selvatico. Tuttavia, come hanno osservato tutte le associazioni riunite nel Coordinamento Ecologista Trentino, fra le altre, dall'ente pubblico si pretende il rispetto di precise procedure. Nella fattispecie, innanzitutto per chiarire la dinamica dei fatti, cercare di contestualizzare la reazione dell'orso, specie protetta, o più probabilmente in questo caso di un orso con i cuccioli, di verificare il comportamento delle due persone, che erano padre e figlio, entrambi cacciatori, dunque esperti di fauna selvatica, che dopo hanno spiegato che era loro intenzione quella sera fare una semplice passeggiata senza altri scopi di osservazione o altro, e l'incontro dunque è stato del tutto casuale, hanno spiegato. Sarebbe comunque interessante sapere quali erano esattamente le circostanze e come hanno reagito padre e figlio in questo episodio che è accaduto appena qualche settimana dopo un altro incontro ravvicinato, sempre in Val di Non, nel quale però un bambino, una volta trovatosi l'orso a pochi metri, si è allontanato con calma mentre l'animale lo osservava curioso ma non impaurito e poi se ne andava. Il tutto è stato filmato da un familiare del bimbo e il video ha fatto il giro del mondo. Molti di voi lo avranno visto, immagino. Nel caso dei due uomini dell'altra sera, invece, l'orso si è impaurito. Forse appunto voleva proteggere i cuccioli, era un'orsa. Forse i due escursionisti hanno sbagliato l'approccio. L'ipotesi più verosimile è che l'orso abbia assunto un comportamento difensivo, appunto per allontanare gli intrusi e poi andarsene. Comunque sia, ci vorranno mesi per avere un esito delle indagini e anche delle ricerche genetiche che sono state avviate per dare un nome all'esemplare coinvolto in questo episodio. Una volta identificato, l'orso andrebbe ucciso, secondo la decisione della giunta leghista del Trentino, maggioranza che nella propria base elettorale ha anche buona parte del mondo degli allevatori. che sono platealmente schierati contro la presenza dell'orso in Trentino dopo un progetto di ripopolamento che va avanti da 20 anni e ora è arrivato alla presenza di un'80ina di esemplari nel Trentino occidentale. E pensare che, paradossalmente, proprio in questi stessi giorni, nella vicina provincia dolomitica di Belluno, il Club Alpino Italiano ha premiato un'azienda agricola con un riconoscimento per un'iniziativa a livello nazionale, appunto, sulla fauna selvatica, in particolare sui predatori quali il lupo, ha premiato un'azienda che ha scelto di allevare capre in montagna proprio in una zona notoriamente frequentata dai lupi. La convivenza, ha spiegato questo allevatore, premiato dal CAI, è possibile. Basta proteggere adeguatamente le capre di notte con le reti elettrificate. Le nostre fototrappole, ha spiegato, riprendono in continuazione i lupi qui attorno, ma gli animali hanno capito che le capre sono per loro irraggiungibili. Non è complicato, basta decidere e farlo. Ma evidentemente e per il presidente del Trentino è ancora meno complicato emanare un'ordinanza di abbattimento invece di aspettare l'esito delle indagini. Un atto amministrativo che peraltro sarà probabilmente impugnato dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che si è ripetutamente espresso in questi giorni contro l'uccisione dell'orso e ha sottolineato più volte che innanzitutto bisogna per l'appunto ricostruire i fatti, perché se come sembra si trattava di un'orsa mamma, quella, ha detto Costa, fa la mamma difendendo i suoi piccoli. Dunque va semplicemente capita la dinamica dell'incidente. Parlato di orsi, restiamo sulle taglie forti e passiamo ad altri poderosi animali, gli elefanti. I primi di giugno, una notizia che arrivava dal Kerala ha scosso tutte le persone sensibili. Una giovane elefantessa incinta è morta assieme al suo cucciolo per le ferite riportate dopo aver mangiato un ananas pieno di petardi destinato ad un cinghiale. Attorno alla vicenda si è sviluppato un dibattito molto acceso, perché una parte dell'opinione pubblica, pur riconoscendo l'ingiusta fine della giovane elefantessa, scagionava non tanto il gesto, quanto la motivazione dei contadini indiani che utilizzano quei dissuasori terribili, gli ananas appunto imbottiti di esplosivo, perché sono esasperati dalle incursioni dei cinghiali che fanno razzie nei loro raccolti, raccolti che per loro sono l'unica fonte di sussistenza. Altre parti di opinione pubblica invece non ha giustificato in alcun modo quella sproporzione tra mezzi e fini. In fondo i cinghiali portano solo se stessi e la propria fame in campo, mentre l'uomo si avvale della tecnologia e quindi esce sempre avvantaggiato dai contrasti per le risorse. Contrasti che sono sempre esistiti, anche all'interno di una stessa specie. Ancora un elefante ucciso, stavolta a colpi di proiettili. È toccato a un maschio di 3 anni la cui carcassa è stata trovata a Odisha, uno stato dell'India orientale sul golfo del Bengala, e, secondo i funzionari, è colpa dei bracconieri. Evidenti colpi di fucile, infatti, hanno trivellato il suo corpo, ma le sue zanne erano ancora intatte. Il dato allarmante è che questo è il terzo caso di bracconaggio in pochi giorni. In precedenza, 3 elefanti, un maschio, una femmina e un elefantino, erano morti sempre a Odisha dopo essere rimasti intrappolati nel recinto di filo elettrificato che i bracconieri avevano costruito per intrappolare i cinghiali. Agli elefanti, che erano morti folgorati, sono state poi tolte le zanne, che vanno ad alimentare il mercato nero dell'avorio. Il governo, come risposta, ha sospeso 2 guardie forestali per negligenza. Queste morti, infatti, hanno sollevato numerosi dubbi sulla reale difesa di questi maestosi animali, sempre più a rischio sia per colpa della perdita di habitat che per il bracconaggio. I gruppi di conservazione sostengono che dall'aprile 2019 oltre il 50% degli elefanti sono morti per cause innaturali. Inoltre, perdendo circa 20 maschi utili alla riproduzione ogni anno, la sostenibilità e la salute della popolazione dei pachidermi indiani è in pericolo. La biologia degli elefanti sembra avere avvertito il pericolo e pare adattarsi prendendo le conseguenti precauzioni. Uno studio condotto da Joyce Poole di Elephant Voices ha monitorato gli sviluppi in questa specie per più di 30 anni. La scienziata, studiosa del comportamento sociale degli elefanti presso il Parco Nazionale di Gorongosa in Mozambico, cofondatrice e co-direttrice della ONG Elephant Voices, ha rivelato al Times di avere notato una correlazione diretta tra l'intensità del bracconaggio e la percentuale di femmine nate senza zanne in alcune delle mandrie osservate. Dunque il meccanismo di difesa messo in atto dagli elefanti sembrerebbe questo: nascere senza zanne. Sembra incredibile, ma è quello che sta accadendo in Africa e sarebbe la prova del fatto che l'uomo sta addirittura influenzando questo genere di cambiamento biologico e fisiologico. Una mutazione che a cose normali avrebbe bisogno di migliaia e migliaia di anni per realizzarsi. Quasi un terzo degli elefanti che vivono in Africa sono stati illegalmente abbattuti dai bracconieri negli ultimi 10 anni, per soddisfare la domanda di avorio dell'Asia, dove c'è ancora un commercio in forte espansione, in particolare in Cina. Circa 144.000 elefanti sono stati uccisi tra il 2007 e il 2014. I superstiti, però, potrebbero nascere privi di zanne, come i loro cugini asiatici, in modo da lasciare i bracconieri a bocca asciutta. Segue dal 2012, l'anno zero della nostra trasmissione, sa che abbiamo sempre avuto attenzione verso le più svariate sfaccettature dell'animalismo. Nel nostro blog troverete il ritratto di tanti personaggi storici, d'azione, d'arte, di scienza, di lettere che hanno sposato la causa degli individui non umani. Se cercate su www.restiamoanimali.it potete trovare curiosi ritratti di personaggi che non vi aspettereste, da Giuseppe Garibaldi a Enzo Maiorca, da Tullio Solenghi a Henry Salt. Stavolta è il turno della rivoluzionaria francese Louise Michel. Il servizio è del nostro Lorenzo Guadagnucci. Oggi vogliamo parlare brevemente di Louise Michel, insegnante e rivoluzionaria francese, vissuta fra 1830 e 1904, famosa per il ruolo avuto durante la Comune di Parigi, forse il primo importante episodio di rivoluzione sociale in Europa. La Comune fu soffocata nel sangue dopo appena 2 mesi, nella primavera del 1871, ma è rimasta nella storia del continente come un esempio e un ammonimento. Marco Rovelli, nel libro Il tempo delle ciliegie, edito da Eleutera, racconta l'avventura di Louise Michel, figlia illegittima di un nobile, donna votata all'abbattimento delle costrizioni tipiche del patriarcato. Louise fu una rivoluzionaria, una combattente sulle barricate di Parigi, ma fu anche una educatrice imperterrita, fondatrice di scuole, una maestra che innovò i metodi di insegnamento, mettendo al centro di tutto i bambini e la loro fantasia e il loro talento, con un approccio decisamente anti-autoritario. Louise fu anche una pioniera dell'animalismo. In alcuni suoi scritti legò la sua spinta rivoluzionaria proprio a una riflessione sulla condizione animale. Per quanto ricordo, scrisse fra l'altro, l'origine della mia rivolta contro i potenti è stato il mio orrore per le torture inflitte agli animali. Speravo che gli animali potessero vendicarsi, che il cane potesse mordere l'uomo che lo picchiava senza pietà, che il cavallo sanguinante sotto la frusta potesse ribaltare l'uomo che lo tormentava. Louise raccontò di essere rimasta sconvolta da bambina di fronte allo spettacolo di un'oca appena decapitata che correva impazzita nell'aia senza la testa. Erano tempi in cui l'empatia per la sofferenza animale era una stravaganza quasi incomprensibile. Perciò Louise fu un'antesignana. Un giorno, sulle barricate della Comune, fu rimproverata dai suoi stessi compagni perché si allontanò dai combattimenti per soccorrere un gatto rimasto chiuso in un angolo e spaventato. Per tutta la vita le case di Louise furono rifugio per animali randagi. Nemmeno la condanna al confino in Nuova Caledonia cambiò queste sue attitudini. Aveva compreso, senza essere una filosofa, ma con chiaro intuito politico, che la società di eguali cui aspirava non poteva escludere dallo sguardo i viventi non umani. Condannò anche la vivisezione. Era un'anticipazione del moderno antispecismo. Rovelli, nel suo libro, cita alcuni brani tratti da un testo dedicato a Louise Michel da Pietro Gori, avvocato anarchico a suo tempo molto popolare, autore della famosa canzone Addio Lugano Bella. Gori conobbe Louise quando lei era ormai anziana. Si trovarono a parlare degli animali, considerati nel linguaggio di allora esseri inferiori. Scrive Gori. «Diversi sì, inferiori no», disse Michel. «Ma fra l'umanità e le altre specie zoologiche, azzardai io». «Ebbene», incalzò l'ardente vegliarda, «è appunto perché l'umanità vuole calpestare gli esseri che voi chiamate inferiori che essa si trovò esercitata a inferocire e a dilaniare se stessa. Le razze inferiori, le classi inferiori, il sesso inferiore, che per dileggio chiamate gentile, ecco la classificazione trasportata dal mondo animale a quello umano. Ma la lotta, direte, fu la condizione di ogni processo. Sì, ma io non amo la lotta per la lotta. La voglio solo perché da essa scaturisca invece dell'antagonismo la fratellanza di tutti gli esseri». Marco Rovelli, Il tempo delle ciliegie, editore Eleutera. Play. spellbound custom of the game. Caden spoiled in love pictures velvet. È dedicata alla patria di Louise Michel la ricetta di questa settimana, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà. Potevamo non omaggiare la rivoluzionaria Louise Michel con una ricetta delle sue terre? Un piatto divenuto un cult della cucina francese. Si potrebbe definire banalmente un toast molto farcito, ma volete mettere l'eleganza di chiamarlo col suo nome? Ecco a voi la versione vegetale del croque monsieur. Gli ingredienti per 4 persone sono 8 fette di pan carré alto, 100 g di tofu, 200 ml di latte di soia, 25 g di amido di tapioca, un pizzico di noce moscata, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, 150 g di muscolo di grano, 50 g di senape e sale. Scottate il tofu in acqua salata per 10 minuti, scolatelo e frullatelo assieme al latte di soia e al cucchiaio di olio. Con questa miscela stemperate l'amido di tapioca, aggiungete sale, noce moscata e lievito alimentare. Mettete sul fuoco a fiamma bassa e quando l'amido di tapioca inizierà ad addensare e filare, il vostro composto sarà ben elastico, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. A parte, tagliate i bordi del pan carré e spalmate 4 fette con la senape. Distribuite metà della crema di soia sulle altre 4 fette, affettate il muscolo di grano e distribuitelo sulle fette con la crema di soia. Sovrapponete le fette con la senape sopra il muscolo di grano e sistemate ogni sandwich su una placca con carta forno. Spalmate la rimanente crema di soia sopra ogni croque monsieur e infornate a 220 gradi per 5 minuti. Servite caldi e filanti. Buon appetito! Surprise, surprise, so you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hear the bites then, there was stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No birds but obscure style. Siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 545 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.